registriamo. Questa è Antropologia Culturale del 11 maggio del 2012. Allora, non abbiamo, vi avevo lasciato, non ricordo più quando, a metà sulla questione delle opere di Lévi-Strauss. A questo punto diciamole tutte quelle principali così. Allora, abbiamo detto 1948, vita familiare e sociale degli indios Nambiquara. Dico bene? Sì. La vita familiare e sociale degli indios, degli indiani Nambiquara, Nambic col K, Guara, W-A-R-E. L'anno dopo la summa, cioè l'opera teorica fondamentale del primissimo Lévi-Strauss, che sono le strutture della parentela. Non ci fermeremo su quest'opera perché è una schiaccia di guai. Cioè, no, però proprio quella è la, se mi permettete, e se mi permette anche la buona anima di Claude, è la è proprio la degenerazione dello strutturalismo. È affascinante, volendo, perché so. Dopo poi si è un po' ammorbidito per certi versi e ha reso più complesse le altre cose. Comunque, mentre il libro sui Nambiquara comunque si legge bene, se uno voglia se lo legge, se c'è ancora in commercio non lo so, perché è più un libro di etnografia che non di antropologia teorica, cioè racconta, spiega, poi c'è anche la struttura della tribù con le due metà, i sottogruppi, eccetera, però struttura mentale della preghiera di nel 1950 c'è un'opera importante di cui vi leggerò qualcosa, che in realtà non è un'opera, è l'introduzione. Ora, in quell'anno, qualche anno prima, è morto Marcel Mauss. In Francia si fa una edizione completa delle opere, si raccolgono più o meno tutte le opere di Marcel Mauss, poi ce ne saranno altre, insomma. È una edizione fatta a tamburo battente, poco tempo dopo la morte di Mauss, e in cui comunque si raccolgono gli scritti principali di Mauss. Sapete già come si scrive, brava, cioè. Lévi-Strauss scrive l'introduzione, scrive una lunga introduzione, più di 50 pagine, introduzione all'opera di Marcel Mauss, introduzione all'opera di Marcel Mauss, nella quale ovviamente Lévi-Strauss dichiara il suo debito nei confronti, insomma, del lavoro di Mauss, che viene considerato come, comunque, insomma, diciamo, Lévi-Strauss è uno dei primi che valorizza proprio l'opera. E la cosa fondamentale però di questa introduzione è che contiene uno dei più bei concetti mai, una delle più belle invenzioni concettuali mai fatta da Lévi-Strauss, che però poi Lévi-Strauss non riprenderà più nel corso della sua vita. Cioè, sono quelle robe di genio che uno fa così, che si chiama le signifiant fluctuant, il significante fluttuante. Non ha niente a che vedere con il mondo, né con i giapponesi fluttuanti, con il mondo fluttuante del Giappone, però è fluttuante, è un significato che flutto. Vaga in giro. Ve lo racconterò in breve, perché insomma è un bel concetto che poi è stato usato da un sacco di altre persone. Lo riprendono Deleuze, lo riprende anche Foucault, fra gli italiani l'ha ripreso a gambe. Io l'ho, devo dire, confesso di essere entrato in contatto con questo concetto leggendo Gamber, perché non avevo ancora letto anni fa questa roba. Poi sono andato a vedere qual era la formulazione originale di Lévi-Strauss, ma comunque di questo parleremo. Nel 52 si pubblica Race et Histoire, che è un breve libretto scritto per l'UNESCO, in cui non viene demolito il concetto di razza, ma viene, virgolette, relativizzato. Quindi è un lavoro come dire, teorico, classico, non è più un lavoro sul campo. Di lavoro sul campo l'unico libro che ha pubblicato Lévi-Strauss è quello sui nomi qua. Poi nel 1955 il suo libro più popolare, quello che gli ha dato il maggiore successo, ma ovviamente il libro meno importante, anche se ci sono delle cose interessanti pure lì, però da un punto di vista teorico, che si chiama Tristi Tropici. È un libro, uno che lo ha detto così, un libro di viaggio, in cui Lévi-Strauss racconta la sua formazione, insomma, racconta gli anni giovanili, come è diventato antropologo, le vie contorte e traverse per le quali è giunto all'antropologia, la sua esperienza, quindi le sue prime esperienze in Brasile, perché casualmente lui stava in Brasile, quindi per questo poi ha fatto diciamo le tre popolazioni presso le quali ha fatto un lavoro sul campo nel corso di non più di 3-4 anni e mezzo circa, e cioè che sono quelle dei il nome adesso, quelle che lui chiama, adesso c'è un buco in testa, mi verrà dopo, che è un insieme di popolazioni, tutte popolazioni che quando lui incontra sono alla fine della loro parabola, cioè stanno quasi per estinguersi, quindi lui, specialmente la terza, quella dei Nambiquara, che è quella su cui scriverà il libro, l'altra è quella dei Bororo, che poi sono rimasti più famosi dei Nambiquara per le tribù, perché li hanno studiati anche altri famosi dopo, perché è una tribù che era un po' più estesa, una etnia un po' più estesa dei Nambiquara, ma cioè, anche quella è andata male, e la prima che non mi ricordo, c'ha due nomi diversi, perché in Tristi Tropici Lévi-Strauss lo chiama in un modo, mentre altri antropologi lo chiamano. Comunque sono le tre popolazioni che... Però il libro ovviamente è bello, lui era uno che scriveva anche bene, sapeva raccontare, sapeva, quindi è un libro divertente, non, cioè, se uno è appassionato dei gialli di Agatha Christie o anche dei romanzi di Julian, ma non è che si diverte. Però diciamo, rispetto alle altre opere, è la sua opera, infatti è quella che ha avuto più successo, è quella che ha anche venduto più copie, insomma, che è quella che gli ha dato fama a livello, insomma, lui per molta gente, fino anche a non pochi anni fa, era essenzialmente l'autore di Tristi Tropici, insomma. Che però è un libro da cui non è assente totalmente la dimensione dell'antropologia, infatti dovrei averlo fatto qua, che volevo leggere un pezzetto. Allora, ho deciso che i video non ve li faccio vedere perché a meno che proprio non siate morti. No, non l'ho portato a questi corpi, guarda un po'. Va bene, meglio, potrei portare l'altro. Allora, del 58 è un libro che si chiama Antropologia strutturale, che poi verrà seguito da un secondo volume, Antropologia strutturale del... Antropologia strutturale 2 nel 1958, cioè nel 58 è il primo, dove è l'altro? Nel 73, Antropologia strutturale 2, 73, che sono tutti e due sono delle raccolte di saggi, come dire, in cui il metodo cosiddetto strutturale è esposto per la prima volta nelle strutture elementari in quel modo così massiccio e anche un po' a volte, insomma, respingente, insomma, viene messo al servizio di un discorso più utile. Non vi leggerò niente di Antropologia culturale 2, né uno né due, però vi leggerò un'altra cosa di un mito indiano che più o meno è fatto come le cose di Antropologia strutturale, non fare così. Nel 62 due libri importanti, entrambi dedicati più o meno allo stesso problema. Il primo è Le totemisme aujourd'hui, il totemismo oggi, e il secondo è La pensée sauvage, il pensiero selvaggio. Entrambi i libri, il primo esplicitamente sin dal titolo, il secondo implicitamente, sono una critica radicale del concetto di totemismo, su cui bisogna dire qualche parola, ma ve la dirò dopo. La critica del totemismo, che era stata una delle, come dire, uno dei campi di indagine privilegiati dell'antropologia pre-Levi-Straussiana, quindi Radcliffe Brown, Pritchard Evans, Malinowski, non ve li ho fatti tutti questi, insomma, comunque, diciamo, se vi dico Malinowski, che un po' l'abbiamo fatto, capite grosso modo che cosa era. Diciamo, sinteticamente, il totemismo è il tentativo di costruire delle strutture. Anche le varie teorie, perché poi sono comunque diverse, sia quelle di Radcliffe Brown che di Evans Pritchard, che di Malinowski, che di altri sul totemismo. Insomma, diciamo, almeno di alcune di queste teorie si può dire che anch'esse rappresentavano un tentativo di antropologia strutturale, ma la struttura antropologica, cioè il tipo di lettura, il tipo di quadro concettuale soggiacente ai comportamenti delle culture, dei popoli, eccetera, veniva individuato a livello dei contenuti. Cioè, si diceva, siccome c'è una serie di pratiche che consistono nell'individuare delle cose chiamate totem all'interno delle culture primitive, che hanno certe caratteristiche, che comprendono, che si intersecano con la struttura, con la composizione sociale delle, diciamo, etnie e delle tribù, cioè con la loro divisione in metà e poi in sottometà, eccetera, eccetera, con le regole della parentela, perché induce restrizioni sulla possibilità di fare matrimoni tra membri o indirizza il matrimonio verso una certa scelta, uno del gruppo X può sposare soltanto una donna del gruppo Y, oppure proibisce, uno del gruppo X non può sposare una donna del gruppo Y, eccetera, eccetera. E con una serie di proibizioni alimentari in genere, tabù, quindi, ma anche non solo alimentari. Allora, di tutto questo, questa cosa che in realtà poi non è così, cioè in queste due opere, cioè sia nel totemismo oggi che nel pensiero selvaggio, Levi-Strauss si applica giustamente a demolire questa categoria del totemismo, perché dimostra che non è possibile fare una generalizzazione. Il totemismo, praticamente la base fondamentale del totemismo sono le culture australiane, è lì che il fenomeno è stato diciamo registrato e studiato con la maggiore ampiezza possibile. Effettivamente si può dire che tutte le culture, tutte o quasi tutte, o la grande maggioranza delle culture australiane aborigene, evidentemente, sono tutte culture, diciamo, totemiche, basate su questo intreccio tra queste misteriose figure, genere sono figure animali, ma non è detto, possono anche essere vegetali, possono essere anche degli oggetti, un totem può essere anche un pezzo di legno, non vedo che debba essere questo, però insomma, in generale sono animali. E che comportano, abbiamo detto, restrizioni, eccetera, eccetera. Per una serie di motivi, adesso sarebbe lungo vedere, per molti degli antropologi precedenti a Levi-Strauss era apparso per alcuni decenni, perché poi non è che è durata più di tanto, insomma, che, come dire, il totemismo potesse rappresentare un quadro unitario entro cui studiare tutte le culture selvagie o cosiddette primitive. Ora, perché questo per Levi-Strauss è un ostacolo? Perché ovviamente Levi-Strauss non cerca la chiave della spiegazione dei comportamenti sociali, e questo fa, cerca di fare l'antropologia, dare un'ipotesi sui comportamenti sociali di certi gruppi. Levi-Strauss vuole staccare la spiegazione di questi comportamenti dai contenuti concreti, perché è convinto che ci sia uno, come dire, un livello più profondo che è un livello di forme, non di contenuti. Quindi non di, cioè, che non ha senso andare a cercare dove c'è lo stesso tabù alimentare, se fra gli aranda non mi ricordo di che zona dell'Australia sono australiani, insomma, e in Nambiquara, o gli Azand del Brasile, o i Quaqutl del Nord America, no? Perché, secondo lui, questa è una via perdente perché ci illude che si possa trovare l'unitarietà, l'unità in quadro generale a livello dei contenuti, mentre invece la grande idea della grande, non vuol dire giusta, ma insomma la grande e innovativa idea dell'antropologia strutturale di Lévi-Strauss è che questa unità, questa chiave di lettura delle culture non si trova a livello dei contenuti espliciti, cioè dei racconti, ma a un livello di qualcosa di più profondo che egli chiama struttura e che sono delle forme, quindi strutture formali, puri e semplici schemi, no? Di tipo anche, non era affatto scandalizzato Lévi-Strauss di questo, che sono anche di tipo matematico, cioè con una struttura quasi matematica, di tipo logico-matematico, insomma. Se l'individuo X fa parte della cultura A, ne consegue che deve avere certi comportamenti B, C, D, E, può sposare donne di tipo A, K, L, osserverà, eccetera, eccetera, insomma. Ovviamente collegandole in modo che non è immediatamente visibile. Queste le cose che studia Lévi-Strauss sono cose che né Malinowski, né Radcliffe Brown, né Evans Pritchard si sarebbero mai neanche sognati di prendere come oggetto di studio, poiché le avrebbero considerate delle bubole, delle come dire, costruzioni eccessivamente fantasiose. Fate sulla base, ovviamente, siccome Lévi-Strauss, in certi casi può anche essere che le cose siano andate così, e che anche noi possiamo fare ex post delle critiche di questo tipo all'impostazione di Lévi-Strauss, però naturalmente Lévi-Strauss non si fa pigliare così in castagna facilmente, quindi insomma c'è questa. Allora, questo è il contenuto dei due libri sul totemismo e sul pensiero selvaggio. Con questi due libri praticamente si chiude la prima fase del, Lévi-Strauss pone i fondamenti della sua antropologia strutturale e li pone su una base, tutto sommato, però ancora classica, virgolette. Tutti i libri sino al pensiero selvaggio sono ancora dei libri in cui delle ricerche, delle costruzioni concettuali in cui è in qualche maniera la vita concreta del virgolette primitivo, del selvaggio, che è al centro della ricerca di Lévi-Strauss. A partire dagli anni successivi, Lévi-Strauss concepirà invece un progetto folle, no, insomma, molto complesso, che comincia in realtà praticamente mentre lui sta finendo di scrivere Il pensiero selvaggio. Allora, ripeto, tutte le opere tranne Antropologia strutturale e Antropologia strutturale 2, che sono delle raccolte di robe già scritte, tutti gli altri sono libri originali, cioè scritti ex novo, mentre Antropologia strutturale e Antropologia strutturale 2 sono delle raccolte di saggi pubblicati su altri, però insomma, con un filo rosso, evidentemente con una cosa. Bene, dal 64 parte invece il grande progetto di Mythologique, sul quale non diremo nulla perché è un progetto molto bello, affascinante, eccetera, ma dovrei mettermi lì e stare lì a parlare per il gioco. Però vi spiego semplicemente quale fu il virgolette folle progetto di Lévi-Strauss. dare una lettura strutturale di tutti i miti delle culture del mondo. Allora, siccome adesso vi darò l'esempio di una dei primi esperimenti di diciamo lettura strutturale di un mito, capirete meglio quando vi faccio l'esempio. Allora, il progetto venne portato a termine, nel senso che almeno relativamente, ovviamente non è. Allora, attenzione, non confondetelo con il ramo d'oro, non c'entra nulla con il ramo d'oro. Il ramo d'oro è obiettivamente una raccolta esauriente. Voglio fare una piccolissima battaglia tra parentesi contro l'uso del termine esaustivo, che non esisteva in italiano sino a pochi anni fa, che un gruppo di selvaggi e scriteriati, in genere manager o pubblicitari, gente di questo tipo, ha introdotto nella lingua. Io non è che sono per il purismo della lingua, cioè sono favorevole a chi sia anche mezzo linguistico, ma esaustivo mi fa schifo. Siccome già esiste una parola in italiano che vuol dire la stessa cosa, e è esauriente. Che differenza c'è tra esauriente e esaustivo? È come visuale e visivo. Perché diciamo visuale invece di visivo? Chiedetelo un po'. Che differenza c'è tra visuale e visivo? Nessuna. Allora, perché a un certo punto si è cominciato a dire visuale invece che visivo? Vediamo chi ha un'ipotesi. Come si dice visivo in inglese? Visuale. Basta. Ma se noi abbiamo già visivo, cioè visuale c'era, ma era una roba che non usava nessuno. A un certo punto, secondo la gente, e siccome gli fa fatica alle persone di parlare la propria lingua, trovano più facile. Eh sì, perché questa è la questione. Trovano più facile. Allora, visuale. È lo stesso per? Esauriente e esaustivo. È un inglese, no? No, è un francese. Sì, ma non c'era proprio, se voi guardate sul Palazzo, sul Reguttini, fino agli anni 50, la parola esaustivo non esiste. Adesso lo so, mi prenderete tutti per un vecchio pazzo perché sono. Cioè io non è che sono beh, felice quando le lingue cambiano, ma quando cambiano in senso, cioè. Perché si porta qualcosa di nuovo, ma quando viene sostituito qualcosa che c'è già con qualche cosa che, per esempio, l'uso dei termini inglesi non mi dà fastidio, i termini inglesi sono, molti di quelli che si usano, sono tutti portatori di sfumature di significato, il termine italiano non ha, quindi è comprensibile usare dei termini inglesi invece che italiani, perché hanno, almeno in gran parte dei casi, in buona parte dei casi, ma ci sono dei casi in cui veramente questa roba non c'è, siccome allora sono due parole che mi hanno. No, ce n'è anche altre, se vabbè, comunque sono delle. Potete pure considerare delle manie senili, non mi offenderò. No, non mi offenderò. Cioè sono consapevole che ci sono anche fenomeni di questo tipo. Torniamo a noi. I quattro libri di mitologia sono tutti molto belli, mi spiace di non potervi dire nulla di questi, perché anche perché però confesso che io ne ho letti solo due e mezzo. Non potrei farvi un panorama su tutti e quattro. Comunque, il primo si chiama, le dico prima in francese, il primo si chiama Le Crypt et le Qui, il secondo si chiama Du Miel au Sang, il terzo si chiama L'Origine maniera del Table e il quinto e il quarto, l'Omni. Quindi il crudo e il cotto, dal miele alle ceneri, il crudo e il cotto, dal miele alle ceneri, l'origine delle buone maniere a tavola e l'Omni. Tutto il ciclo, tutti questi quattro volumi insieme si chiamano mitologique, cioè mitologique è difficile. Come lo traduciamo mitologique, cazzo? Perché mitologiche non va bene, mitologiche non va bene. Se è una via di mezzo tra mitologie poi sulla base di questo è stato coniato il termine mitologema. Perché che è una cosa che un'ipotesi che avanza anche. Vi devo ripetere i titoli di gioco. Allora, ripeto, il primo è il crudo e il cotto, il secondo è dal miele alle ceneri, il terzo è l'origine delle buone maniere a tavola, il quarto è l'uomo nudo. Fate attenzione all'origine delle buone maniere a tavola. In francese l'aggettivo buono non c'è perché basta dire maniere. L'origine del maniere. L'origine del maniere de table, dicono loro. L'origine delle maniere della tavola, ma vuol dire delle buone maniere a tavola. C'è un libro di Norbert Elias che è simile sia di argomento che di titolo, mi ricordo bene il titolo, perché parla delle buone maniere, però ha un atteggiamento, Elias è un sociologo, quindi insomma, non è problema, poi l'ha scritto dopo, che dopo quello di Le Risorse. I libri escono rispettivamente nel 64, 67, 68 e 71. 64, 67, 68 e 61. È il lavoro più organico, più ampio che lui abbia mai fatto, eccetera, eccetera. È molto bello perché ovviamente si raccontano, allora io confesso che la gran parte, vabbè tanto, sono lì, mi registrano, sono sputtanato la vita, la gran parte di queste cose qua, non so, stanno, uno alle teorie di Strauss se ne può anche strafregare, ma c'è, insomma, racconta tanti e tali miti, però perché sarebbe difficilissimo per uno normale, insomma, andarsi a pigliare dalle varie fonti, eccetera. Ma lui li trova raccolti, e lui poi li racconta bene perché è bravo, perché è capace a, insomma, raccontare, ma anche come anche il Ramo d'Oro. Il Ramo d'Oro è una bellissima lettura, anche a prescindere dalle tesi di Fraser, che a volte zoppicano, se ne accorge anche, cioè, dopo 40 anni, 50 anni, si accorge anche uno così, insomma, che non va bene. Però le storie sono belle, comunque, no? Perché, insomma, sono abbastanza ben raccontate, eccetera, eccetera. Ed è anche divertente a volte vedere, per esempio, i rapporti tra diverse varianti, tra diverse versioni, tra diverse cose. Insomma, c'è una fascinazione della narrazione dentro Mezzogiorno, poi certamente e tutto è sempre intrecciato con questa idea, perché insomma, la grande intuizione di Lévi-Strauss è che questi miti siano organizzati, attenzione, adesso arriviamo al punto fondamentale, uno dei punti fondamentali dell'antropologia di Lévi-Strauss, siano organizzati come un linguaggio, che è ovvio, sono robe raccontate, no, non come un linguaggio nel senso che sono raccontati, no, ma che la struttura del mito in quanto tale, messi insieme tutti i miti, secondo Lévi-Strauss, questa è la grande idea di mitologique, costituiscono un linguaggio o l'equivalente di un linguaggio, o detto in termini proprio precisi, hanno una struttura linguistica. Allora, la struttura che sottostanno questi miti? È la struttura linguistica. Allora, però per poter ben capire che vuol dire struttura linguistica dobbiamo fare un piccolo passo indietro, perché io non so quanto sia approfondita la vostra conoscenza di Saussure, e quindi vale forse la pena che io vi dica due parole di Saussure, perché in realtà De Saussure è il grande modello per tutta l'antropologia di Lévi-Strauss. L'antropologia di Lévi-Strauss non è altro che il tentativo di trasferire le teorie linguistiche di Saussure, roba dei primi del secolo, quindi non contemporanee a Lévi-Strauss, trasferire i concetti della linguistica di Saussure nello studio del mito, perché il presupposto di tutto il lavoro della antropologia strutturale di Lévi-Strauss è che e lui pensa anche ben più del mito, naturalmente, ma gran parte delle attività umane siano organizzate come un linguaggio. Attenzione, un linguaggio non letto come lo leggono i grammatici tradizionali, ma letto nella chiave della linguistica strutturale, quindi della linguistica di Saussure. Ma insomma, diciamo, detto in questo modo sembrerebbe una cosa intima, perché Lévi-Strauss non abbia inventato nulla, ma vi assicuro io che ce ne vuole per. Cioè, nessuno aveva mai pensato di trasferire una cosa così di botte, ora con l'inventore, cioè, già è difficile capire o ce n'è voluta per assorbire, come dire, lo strutturalismo in linguistica, no? E adesso arriva uno e ci dice, guardate che non solo in linguistica, ma tutto il pensiero umano al fondo potrebbe essere letto in questo modo, in questa maniera strutturalista. Allora, per farla in breve, perché ovviamente non posso farvi, dovrei farvi un corso a parte sulla linguistica di Saussure, tra l'altro ne saprei forse di più di quanto non ne so di antropologia, ma il corso si chiama antropologia, è quello che mi tocca fare. La linguistica strutturale, la linguistica di De Saussure è intanto è uno degli avvenimenti fondamentali della cultura del Novecento, cioè che hanno influenzato, cambiato, trasformato, introdotto un punto di vista rivoluzionario radicalmente nuovo in tutta la e questo punto di vista si basa su di una cosa non nuova naturalmente, perché non, poi ragazzi non ci si inventa mai nulla, cioè sarà, come diceva, siamo nani sulle spalle giganti, noi di per sé, allora che facciamo noi, guarda, io poi non, ma anche De Saussure, che no, messo un po' meglio di me da un punto di vista intellettuale, ma anche lui in fondo se no. Allora, che cosa rappresenta al fondo questa linguistica strutturale saussuriana? Rappresenta semplicemente il tentativo di, e qui vedete, già vedete la prima somiglianza con l'impostazione di Lévi-Strauss, non a caso, il tentativo di trasferire lo studio di una struttura da quello delle apparenze visibili del linguaggio, dei fenomeni linguistici, quindi la frase, le categorie grammaticali, nome, sostantivo, aggettivo, avverbio, coniugazioni, declinazioni, lingue flessive, insomma, tutti i concetti classici della linguistica, diciamo, ottocentesca, classica, della linguistica indoeuropea, poi dello studio delle lingue indoeuropee fondamentalmente, di trasferirli da lì ad un livello più basilare, più fondamentale, invisibile, inavvertibile alla esperienza diretta del linguaggio. L'idea di Saussure è che nel linguaggio ci sia una struttura profonda, attenzione, struttura profonda, deep structure, è esattamente il termine che indicherà, che utilizzerà il più brillante allievo di Saussure, ma non gli dite che lui è un allievo di Saussure perché vi sputerebbe in un occhio, che è Noam Chomsky, che è il più grande linguista sicuramente, anche se secondo me non vuol dire che abbia detto sempre delle cose giuste, anzi probabilmente ha detto una serie di cose fondamentalmente sbagliate dal mio punto di vista, però obiettivamente è quello che ha costruito la teoria linguistica dopo quella di Saussure, perché è stato capace di, e di fatto però sono simili, insomma, diciamo, Lévi-Strauss, Chomsky non ha fatto, Chomsky sapete come si scrive, sì, perché spero bene di sì, C-H-O-M-S-K-Y, Chomsky è ovviamente il più grande linguista, come dire, vivente, e è il rappresentante di una linguistica strutturale ovviamente molto diversa da quella diciamo di Saussure, ma che condivide con quella di Saussure l'approccio metodologico di fondo. Cioè esiste nel linguaggio una struttura profonda che è invisibile a chi guarda i fenomeni linguistici, quindi che non si può scoprire soltanto studiando la struttura grammaticale, bisogna andare a cercare quella che appunto, ripeto, Chomsky chiama la deep structure. Ma torniamo a Saussure. Allora, la cosa fondamentale di Saussure è che Saussure tenta, mentre tutta la linguistica settecentesca, ottocentesca, eccetera, prima di Saussure è una linguistica prevalentemente storica, cioè cerca di scoprire le radici storiche delle trasformazioni delle lingue. Infatti non a caso la grande impresa della linguistica nel XIX secolo è quella di scoprire la genesi delle famiglie linguistiche. E la famiglia linguistica prevalentemente studiata sarà quella dell'indo-europeo, studiata quando verso la fine del Settecento si cominciò a capire quali sono le la parentela tra alcune lingue non più parlate in genere, quindi arcaiche, classiche, ma di cui c'erano rimasti, ci sono rimasti documenti scritti, cioè il greco e il latino nella nostra area culturale, e una lingua che ha una funzione analoga in Oriente, che è il sanscrito. Quindi lingue morte, lingue non più parlate, ma di cui rimangono documenti scritti. La linguistica storica, la linguistica europea del XIX secolo è una linguistica che si affanna a ricostruire le parentele fra queste tre antiche lingue, greco, classico, latino e sanscrito, e sulla base di quelle a inseguire un folle sogno, naturalmente folle perché non è basato su alcun documento, a ricostruire una mitica lingua indoeuropea, di cui però, ahimè, purtroppo non c'è nessun documento, non solo parlato, ma neanche scritto. Mentre del latino, del greco e del sanscrito ci sono, quindi è possibile studiare latino, il greco e il sanscrito, anche se nessuno al mondo ne parla più, e già nell'Ottocento nessuno al mondo ne parlava più, per il latino, diciamo, il latino fra queste tre lingue è stata quella che ci ha messo, che è, diciamo, sopravvissuta di più, è stata, se non parlata, almeno utilizzata fino a tutto il Settecento, fino a tutto il XVIII secolo come lingua culturale, no? Ancora la scienza nuova di Vico ha una prima versione in latino, poi lui la fa in italiano, ma insomma è molto delle opere. Leibniz nel 600 scrive la gran parte delle sue opere in latino, no? Soltanto gli empiristi inglesi scrivono in inglese, ovviamente, perché non gliene frega nulla, ma insomma Spinoza scrive in latino, no, fino a tutto il 600, buona parte del 600. Va bene. Ovviamente adesso sappiamo che è stupido andare a tentare di ricostruire una lingua di cui non abbiamo documenti, quindi non sappiamo se sia mai esistita. È possibile che sia esistita un'unica lingua indoeuropea nella notte dei tempi, da cui poi sono derivate il greco, il latino, il sanscrito, e poi dal sanscrito le 80 lingue parlate in India, e dal latino le lingue neolatine, cioè di alcune di queste si può fare, cioè, già per il sanscrito è molto difficile, ma per il latino è semplice, insomma, cioè, c'è una storia, per il greco, il povero Cristo è rimasto fottuto perché non c'ha figli, gli è rimasto tanto il greco moderno, non ha avuto, come dire, è stata fin dall'inizio, è stato soppiantato dal latino come lingua comunicativa, come lingua franca, insomma. Comunque, questo è un tipo di linguistica che va benissimo, che nessuno dice che... Ma insomma, come dire, nessuno si rivelerà insoddisfatto di questo tipo di studio, perché diceva, è qualcosa che non mi dice, non mi spiega davvero le lingue come sono fatte. Lui dice, c'è qualche cosa, c'è una... come dire, che cosa ha innovato principalmente? Ha innovato la ricerca degli universali nella lingua. È stato forse il primo che ha posto la questione dell'universale in linguistica. Esistono strutture, e quindi per dire strutture bisogna stare magari non direttamente collegate con la morfologia della lingua, ma con un livello più profondo, che si esprimano in tutte quante le lingue, in tutte quante le cose. Allora, nella dispensina che vi ho dato la volta scorsa, voi avete dei testi che vi potete leggere per conto vostro, che ovviamente articolano tutti questi testi, compresa la mia introduzione, il punto di vista esattamente opposto, cioè che non esistono gli universali linguistici e che quindi dobbiamo andare alla ricerca di un principio di relatività linguistica, non di assolutismo linguistico, che al di là di una generica predisposizione al linguaggio, predisposizione a parlare, facoltà di lingua, l'unico universale possibile, secondo la tesi relativista, ovviamente non è che pretendo che ve la dico, perché però diciamo la mia, quindi diciamo, l'unico universale linguistico che noi possiamo realmente accertare è la facoltà di linguaggio, cioè sappiamo che l'uomo, tutti gli esseri umani, hanno la facoltà di parlare. Ma tra tutte le lingue che storicamente si sono create, si sono prodotte nella storia delle varie culture, l'unica loro parentela è questa. La varietà di strutture grammaticali, fonetiche, fonologiche, fonologiche no, certo, è possibile pigliare tutti i suoni di, parlati in tutte le lingue del mondo, è quello che hanno fatto i fonologi, appunto nella è stata una cosa che è stata fatta sulla scia di Saussure. La fonologia è stato il primo campo della linguistica in cui si è avuto un diciamo risultato concreto, ma quindi è possibile organizzare una fonologia, come dire, virgolette, universalistica, sì, ma è diciamo se non del tutto inutile, quasi, cioè, perché in realtà poi le singole lingue non fanno uso, sì, fanno uso, possono fare uso delle categorie che io trovo facendo la teoria fonologica generale, però poi nelle lingue particolari io uso una parte di questi suoni, non uso tutti i suoni, non uso tutte le opposizioni possibili fra le varie componenti, le varie caratteristiche di un suono, quindi non è... in questo senso, come dire, l'universalismo in linguistica, diciamo, l'universale in linguistica è un'arma in realtà, come dire, spuntata, cioè mi fa girare a vuoto, non mi dice perché non mi spiega nulla della concretezza del fenomeno, cioè di quello che succede davvero. Quello che succede davvero sono le lingue parlate. Quello che succede davvero sono i comportamenti sociali delle varie persone in giro per il mondo, dei vari gruppi, delle varie società, nella storia e in giro per il mondo. E tutte queste non hanno nulla di comune se non, ripeto, questa generica predisposizione al linguaggio o una generalissima elenco di caratteristiche dei suoni e forse, ma nessuno li ha mai realmente trovati, delle strutture grammaticali. Il sogno di Chomsky è stato esattamente quello di completare l'opera di Saussure. Lui non l'ha mai detto questo, perché Saussure, sa perché non gli piace tanto Saussure a Chomsky? Allora, Chomsky è un grandissimo scienziato e tutti ci facciamo tanto di cappello, poi è un militante politico anarchico a cui va tutto il mio, diciamo, rispetto, ma dal punto di vista linguistico è un universalista a marcio proprio, cioè uno che c'ha sta roba e che ha inseguito un sogno per tutta la vita, cioè trovare la grammatica universale, cioè mettere insieme delle regole che valgano per tutte le lingue possibili del mondo, e non l'ha mai trovata, non l'ha mai trovata mezza di queste regole, e pur cosa, dico io, per una ragione ben precisa, non per caso, perché non esiste, perché non c'è una struttura nel senso positivo, descrivibile, una grammatica universale che sia sotto a tutte le lingue. Non c'è grammatica, le grammatiche sono tutte particolari, le società sono tutte particolari, i comportamenti sono tutti particolari. Non mi devo scaldare troppo, sennò mi viene la tosse. Sono tutte particolari e hanno una cosa sola che le unisce, che è la potenzialità, cioè il fatto che sono, diciamo, l'essere umano singolarmente e collettivamente è predisposto per fare certe cose, è predisposto per parlare, è predisposto per costruire una società, quindi per costruire una rete di relazioni sociali, è presupposto per costruire relazioni, ma è impossibile trovare delle leggi generali positive, cioè delle descrizioni, delle cose che vanno, come diceva la signora Margaret Thatcher, sbagliando, noi adesso le cambiamo la cosa, diceva it doesn't exist a thing such society, non esiste nulla del tipo di qualcosa di simile a una società, la società per la Thatcher non esiste, perché esiste solo l'individuo. E noi possiamo, parafrasando la Thatcher, questa è una bella vaccata naturalmente, e anzi è una cosa pericolosa, perché ovviamente lascia aprire la strada, l'uomo, cioè certo che c'è la società, se non ci fosse la società non ci sarebbe l'uomo, con buona pace della signora Thatcher, che in effetti è associata all'Alzheimer, quindi non si può neanche più fare un dibattito con lei. Poi comunque non è che ci abbia mai tenuto particolarmente, ma insomma, volendo, uno dice, per farsi del male, poteva anche fare un dibattito con la Thatcher. Ma insomma, comunque adesso non si può più fare povera donna perché sta messa veramente male. Allora si può, parafrasando la Thatcher, non dire non c'è nulla di simile a qualcosa chiamato società, ma non c'è nulla di simile a qualcosa chiamata grammatica universale, non c'è nulla di simile a qualcosa chiamata struttura linguistica. Ma perché cioè, comunque questi studi comprendono anche quelle lingue, non so, parlate dalle tribù. Cioè tutte. Esatto, leggi, ma ci certo, adesso non ci prendiamo in giro, diciamo le parole hanno un significato, se io cerco una grammatica universale deve essere, giusto? Cioè, non è che poi arrivare e si trova, va bene per tutte, tranne per quella piccola lingua lì parlata da quei cinque, penso cinque lingue in Brasile, dai, stanno per morire, lasciamoli perdere. Cioè no, ragazzi, no. Se tutte le lingue che io conosco devono essere tutte possibilmente messe sotto a questa teoria. E questo è se noi guardiamo bene, se voi vi leggete bene i testi che vi ho descritto l'altra volta, capite che è molto difficile, perché tutte le strutture, anche quelle più generali a cui noi siamo abituati, verbo, complemento, eccetera, non tutte le lingue ce l'hanno, i tempi sono messi in modo diverso, noi siamo abituati, noi, passato, presente, futuro, e figuriamoci se tu c'è, il quacchiutolo non ce l'ha passato, presente, futuro, magari ce n'ha cinque di tempi, ma uno dei quali vuol dire qualcosa di a cavallo tra il nostro presente e il nostro passato. Ci sono lingue che esprimono modi di pensare, culture, eccetera, eccetera, in cui il passato non è mai veramente passato, perché continua a proiettare la sua azione sul presente. Prossimo, sì, prossimo, ma in modo anche più stringente di così. Cioè proprio che tu vedi la presenza, no? Comunque gli esempi li trovate sulla cosa, ma non posso fare tutti gli esempi. Tutti gli esempi possibili e immaginabili, tutti quelli che ci sono, neanche quelli che abbiamo messo nella, diciamo, dispersa. Però torniamo a Sossio. Sossio era comunque convinto di questa cosa, di cose. E a livello dei concetti che vi dirò adesso, comunque può essere utile quello, cioè il modo di far pensare di Sossio è stato. Allora, per descrivere brevemente qual è il punto di vista sossuriano sulla lingua, possiamo lavorare su tre o quattro dicotomie, tre o quattro coppie diciamo di concetti opposti, il più importante dei quali è quello, diciamo, in italiano lingua parola, ma è meglio dirlo in inglese, in francese, scusate, che era tra parte la lingua in cui si esprimeva Sossio, che era uno svizzero francofono ginevrino, quindi langue e parole, sapete langue, sì, langue barra parole. Che cosa vuol dire langue parole? Allora, la dicotomia langue parole è, se volete, la simile alla dicotomia kantiana tra noumeno e fenomeno. Vabbè, la vuole fare difficile, anche perché non è propriamente la stessissima cosa. Il noumeno pertanto è inconoscibile, la langue per Sossio è, diciamo, conoscibile. Ma allora, la langue rappresenta la vera struttura della lingua, cioè il modo in cui la lingua è organizzata. Il sistema linguistico è langue per, diciamo, Sossio. La parola non è altro che l'esplicitazione, cioè l'atto di parola. Quando uno parla, io che sto parlando adesso, sto facendo della parola. Dico una frase dietro l'altra, costruisco delle frasi specifiche, quindi questo è parola, sono atti di parola. Sono quelli che i teorici degli atti linguistici chiamano speech acts, azioni, atti linguistici. Quindi io faccio della parola, ma io non potrei fare la parola. E voi non potreste capire la parola, non potreste capire quello che io dico, se dietro non ci fosse la langue. Cioè se dietro io e voi non condividessimo una conoscenza, anche implicita, e adesso noi qui siamo tutti uomini, insomma, uomini e donne di cultura, eccetera. Ma questo vale anche con il salumiere, tutto il, cioè, ogni volta che si parla, cioè parlare, non, senza sapere la grammatica, parlare implica, anche senza esserne consapevoli, conoscere la langue, accettare l'esistenza della langue e lavorare sul piano della langue in maniera, se volessimo buttarla sullo psicoanalitico, inconscia, inconsapevole. La langue è una specie di generale inconscio della lingua, che poi può essere reso conscio ovviamente studiando le singole, diciamo, grammatiche, ma il livello della langue, quindi la langue, potremmo dire, non esiste, la langue è un'astrazione, è ciò che è comune a tutte le possibili parole, almeno di una data lingua. E se voglio fare un'astrazione più grande, la langue translinguistica o transnazionale è ciò che sta dietro a tutte le possibili langue nazionali, culturali, diciamo, del mondo. Senza però che sia possibile, no, senza che sia possibile, no, nel caso di come dire Saussure, in realtà l'unico studio realmente scientifico che io posso fare del linguaggio è situato a livello della langue, non della parola. La parola è troppo particolare, è un evento, nelle parole che io sto dicendo, per quanto corretto astrattamente sia il mio italiano, c'è la mia pronuncia, c'è la mia gesticolazione, ma c'è anche la mia scelta delle parole, anche la mia scelta della sintassi, sono io che parlo. Se le stesse cose, dopo che uno si usa bene, le dicesse una qualsiasi di voi, le direbbe in modo diverso, anche se i contenuti potrebbero sembrare identici pezzo per pezzo, ma avrebbe una coloritura, diciamo, diversa, no? L'atto di parola è un atto sempre contingente, contingente, limitato, storico, insomma, storico. Invece la langue è il presupposto non contingente ma necessario, non limitato ma, ahimè, assoluto, non storico ma astorico, quindi è struttura, ecco. Ecco dove sta la struttura per Lévi-Strauss, scusate, Saussure. Mi confondeva la continuazione, e sta a livello della langue. Certo, la langue, anche una langue, una specifica langue, la lingua, quindi dire la lingua italiana, la lingua inglese, sono delle astrazioni. In realtà non esiste in concreto una lingua italiana, una lingua inglese, esistono delle produzioni di parola in italiano, in inglese, che fanno ovviamente riferimento a una sorta di background, di qualcosa che sta dietro, ma sta sempre molto dietro. Nel momento in cui io poi parlo, alla langue non ci penso più, ed è la stessa cosa di camminare, se io dovessi stare a costruire le frasi che sto dicendo adesso, costruendole realmente parola dopo parola, potrei parlare così fluentemente con ognuno di voi, non potrei. È come camminare. Se io dovessi per ogni passo che faccio pensare a quali muscoli devo muovere la gamba, in quale ordine, come devo flettere il ginocchio, o non mi muovo o casco per terra, no? Perché è un automatismo la langue, come tutte le cose al fondo quotidiane che fanno gli esseri umani, sono tutte, no? L'essere umano è un essere in cui la parte istintuale, cioè la parte dell'istinto, la parte dominata, realmente dominata dalla componente genetica, è molto piccola, molto bassa. L'istinto non esiste quasi in Homo sapiens, comunque non esiste come negli altri animali, insomma, come i primati superiori sono tutti caratterizzati da un periodo di apprendistato del cucciolo molto lungo, eh? Un cane, un gatto, un cerbiatto, eh? Pensate a Bambi, alla scena di Bambi, vi ricordate quando Bambi nasce? Butta le gambette per quanto là, dopo 3 secondi cammina già. Non è una... Sì, okay. Allora, non è un'invenzione di Walt Disney, è un po' forzata, ma è realmente così. Non ci metterà 3 secondi, ci metterà un quarto d'ora, ma dopo un quarto d'ora, mezz'ora, se è particolarmente gnocco un'ora, ma il cerbiato più cretino un'ora, ma dopo un'ora cammina, eh? Un bambino dopo un'ora cosa fa? Continua a cadere. Quanto diavolo ci mette il bambino per camminare, il bambino umano, eh? Un anno, un anno e mezzo, accidenti. Vedete che noi abbiamo una neotenia, cioè un prolungamento artificioso rispetto anche ad altre specie molto simili a noi, eh? Anche ai primati superiori, molto lungo. Noi siamo animali in cui la cultura ha preso largamente il posto, non della biologia, ma dell'istintualità biologica. Questo non vuol dire che bisogna opporre natura a cultura, perché in realtà la nostra biologia è già largamente culturale, prevede la cultura, è culturalizzata, molto più di quella di altri animali, insomma. Adesso non stiamo a farla lunga, ma insomma questo è... preso il filo. Perché alla lingua. Ok, va bene, giusto. Allora, questo che cosa, come dire, significa? Significa che significa che il livello della Lang quindi non è un livello fenomenico, non c'è un fenomeno della Lang, eh? Il fenomeno è soltanto quello della parola, l'unico fenomeno è la parola. La Lang è il presupposto della parola. Quindi possiamo dire, cominciando ad introdurre il termine struttura, è la struttura. La Lang è la struttura di cui la parola è l'estrinsecazione, la realizzazione. L'epifenomeno. Cioè quella parte del fenomeno che si realizza. Quindi epi. Il fenomeno ha una componente strutturale e una ha una componente necessaria entro certi limiti e una contingente. La parola è totalmente necessaria, è totalmente contingente. Certo, avviene in base a strutture che sono invece, virgolette, necessarie. Su Lang però non dirò più nulla. Sì. Allora, in realtà io vi ho detto che questa è la prima, in realtà se ne potrebbe scegliere come prima un'altra, ma ci arriviamo lo stesso. Di cosa è fatta questa Lang? Di cosa sono fatte queste parole? Di cosa sono fatti questi atti di parola continui? Parliamo della parola, che è l'unico fenomeno in realtà. Allora, anche a livello fenomenico, per costruire un atto di discorso, uno speech act, io devo cosa fare? Devo mettere insieme, in qualche modo, variabile da lingua a lingua, una serie di produzioni fonetiche. Lasciamo perdere la scrittura. La scrittura è, Derrida la pensa diversamente, pensa che la scrittura sia una dimensione fondamentale e ontologica degli esseri umani, addirittura precedente al linguaggio, ma sono sofisticherie un po'. Andiamo più terra a terra, noi non c'è Derrida, lo lasciamo nell'empirio delle sue cose. La scrittura intesa come traduzione, trasposizione su di un supporto fisico della parola parlata è una sorta di specchio, qualche cosa che ha la stessa struttura, diciamo, della lingua parlata. E la lingua parlata è fatta di fonemi, cioè di suoni elementari, che sono in un numero finito, In italiano sono, attenzione, non sono soltanto le lettere dell'alfabeto, perché ci sono alcuni suoni che che non si, per esempio ci sono, le vocali sono 7, non sono 5, perché ci sono 2 E e 2 O in italiano, dico, il suono gne è un suono autonomo che non ha una lettera specifica, gli spagnoli forse hanno la N con la tilde sopra, ma noi abbiamo GN, quindi sono, diciamo, ma insomma non saranno 25, saranno 27, 30, insomma. Con una trentina di mattoncini fondamentali io li metto in fila e costruisco tutte le possibili parole del mondo. Che natura hanno? Che allora, tenete sempre conto che tutta questa cosa che sto dicendo io adesso è un po' complicato. Io vi sto raccontando il punto di vista di un non relativista, cioè di un universalista, diciamo Saussure, però ve lo racconto io che invece sono relativista, quindi lo so, capisco che può essere complicato, però adesso cerco di rispettare il più possibile per il momento l'universalismo di, diciamo, Saussure. Mi metto nei panni di, diciamo, Saussure. Allora, quale caratteristica hanno dal punto di vista linguistico? Perché sono interessanti queste catene di segni, queste catene di... scusate, ho già introdotto il termine che dovevo definire. Queste catene di produzioni sonore, che cosa indicano? Che cosa vogliono dire? I suoni. Vogliono dire qualche cosa? A, E, N, N, L, M. Vogliono dire qualche cosa? Hanno un significato? Sì o no? No, ovviamente no. Questa è la grande furbata, la grande pensata. Per questo noi esseri umani abbiamo una cosa chiamata linguaggio e gli scimpanzé no. Perché gli scimpanzé, anche loro fanno eccetera, però loro cosa fanno? Cioè, si sono fermati, non volevano fare troppo sforzo, hanno detto, va bene, un suono, un significato. Vuol dire ciao, vuol dire vai fuori dalle palle che mi devo spulciare, vuol dire attenzione che c'è qualcuno che ci vuole rubare il miele dall'albero, e così via. Ogni suono ha un significato. Questo vuol dire che se gli scimpanzé sono in grado di articolare, siamo generosi, 50 suoni, quanti significati sono in grado di produrre? 50. Basta. C'è linguaggio? No. No, non c'è linguaggio. Linguaggio c'è quando io produco una quantità potenzialmente infinita di significati, combinando dei mattoncini che di per sé stessi non hanno significato. Questo principio geniale, insomma, si chiama doppia articolazione. Il linguaggio è un sistema comunicativo basato sulla doppia articolazione, cioè a livello basilare non c'è nessun significato. I mattoni elementari, i costituenti elementari del linguaggio non significano di per sé nulla. Il significato appare soltanto a livello delle concatenazioni e appare in maniera tanto più completa e tanto più soddisfacente quanto più complesse sono le concatenazioni. Già a livello della parola è dubbio che si possa dire che le parole hanno un significato. Tavolo, sì, a tavolo noi sappiamo, libro, buono, cattivo, presidente, bontà, ricchezza, sì, hanno un significato, sappiamo grosso modo a cosa si riferiscono. Però capite che c'è una certa differenza tra il significato della parola ricco e il significato della frase Berlusconi è l'uomo più ricco d'Italia, frase falsa, naturalmente non è lui il più ricco, ma supponiamo che lo sia. È chiaro. La pienezza del significato del termine significato sta più dalla parte della frase, soltanto le frasi significano davvero qualche cosa. Diciamo, le parole cominciano a significare qualcosina, cominciano a significare qualcosina. Non significano ancora del tutto, però diciamo sono sulla buona strada. Quindi nella teoria grammaticale diciamo, va bene, cioè, anche tu vieni messo dentro questa, perché in realtà tu sei quello, è diciamo la prima, le prime unità almeno parzialmente significanti sono quelle che chiamiamo parole, nel modo più, però in realtà le vere unità significanti sono le frasi, è soltanto quando io costruisco una frase che si capisce che cosa voglio dire. Quando dico tavolo, sì, si capisce che cosa voglio dire, ma non ho detto nulla. Arrivo un giorno, ho detto buongiorno, tavolo. No, se c'è un non detto tra noi per cui voi sapete che a tavolo vuol dire per favore portatemi il tavolo, che non è l'abbreviazione per favore portate il tavolo, oppure apri per favore, aprite il tavolo, oppure giù i piedi da quel tavolo se ci fosse, non c'è tra di voi, ma uno studente maschio particolarmente caffone, che le signore non le fanno queste robe in genere, che mette i piedi sul tavolo, io entro, guardo e dico tavolo, oppure piedi, è chiaro che è un brachilogismo, è una abbreviazione di una frase completa, quindi sono il significato vero sta solo dalla parte delle frasi. Le parole hanno un significato in maniera ancora molto rozzo, però servono per costruire, eccetera, eccetera. Bene. Allora, Saussure, l'analisi di Saussure va a tentare di capire, dice, va bene, che cosa si può dire? Qual è allora il costituente del linguaggio? Il costituente reale del linguaggio, di che cosa è fatto il linguaggio? Il linguaggio è fatto di sequenze, parliamo solo di quello parlato, perché quello scritto, ripeto, in questa concezione non è altro che una traduzione semplificata del linguaggio parlato, semplificata o complicata a volte del linguaggio parlato. Il vero fenomeno linguistico è un fenomeno orale, si ha con la verità, e quindi è un fenomeno transeunte, effimero, se non ci fossero questi aggeggini qua, quello che ho detto io oggi sarebbe consegnato forse alla buona volontà dei vostri cervelli, delle vostre menti, quello che vi ricordate di quello che ho detto. Allora, adesso abbiamo delle macchinette che ci consentono, ma queste macchinette sono molto recenti, non c'erano fino a pochi decenni fa. Vabbè, sono i primi già, gli inventori di Edison all'inizio del secolo scorso, quindi insomma c'erano già un secolo, però bene, allora sono delle cose di questo tipo. Che cosa io dico, ho messo gli occhiali sul libro, ho messo gli occhiali sul libro, è una frase, vuole dire qualcosa, significa qualche cosa, voi capite quello che significa, vero? Cercate di fare un passo in più. Perché capite quello che... Perché voi, sentendo queste parole, sentendo questi suoni, ho messo i miei occhiali sul libro? Perché hanno un significato per voi? Perché sappiamo cosa sono gli occhiali e cosa significano. Sì. Diciamo articolato in frase. Ok. Con un soggetto molto... Non basta questo. Se qua dentro ci fosse un bantu e io avessi detto ho messo gli occhiali sul libro, il bantu che cosa ne fa? Perché non sa, cioè la testa in italiano. Il bantu, supponiamo che non conosca l'italiano, se il bantu non conosce l'italiano o anche un lussemburghese non conosce l'italiano, io gli dico ho messo gli occhiali sul libro e il lussemburghese mi fa che scrittura di? O che ne fa sagan, sì, già. Cioè mi dicono così, non è che mi dicono altro perché non sanno la lingua, ma per uno che conosce la lingua l'insieme di suoni ho messo gli occhiali sul libro significano qualcosa, mettiamola così, è un terreno minato questo, produce un'immagine, è il termine più equivoco del codice di Drunk, cioè produce un'immagine mentale, va bene, se uno è di là certo, perché si fa l'immagine mentale, va bene, usiamo pure l'immagine mentale, ok, ma non vi chiedo cose così specifiche, vi chiedo cose ancora più, come dire, fondamentali. Allora, di per sé, da un punto di vista fisico, ho messo, è difficile per noi capire, perché per noi ormai sono tutte cose che già significano, cazzo, ho messo gli occhiali sul libro, è un fenomeno fisicamente descrivibile, fisicamente descrivibile, lasciamo perdere, non si vede niente, no. Fisicamente, dal punto di vista fisico. Cos'è? Ho messo il cuore sul libro, cos'è? Un'azione. No. Vedi che vai già a livello del significato, no? Escludete il significato, supponete di essere persone che non conoscono l'italiano. Sentite. Brava, sono un insieme di suoni. Analizzabili, se io ho uno strumento che analizza le frequenze, posso fare le frequenze, no? Perfetto. Certo, se poi non so cosa vogliono dire quelle frequenze lì, non so. Allora, vedete che se il linguaggio è fatto di fenomeni che sono dei segni, in ogni segno, la parola tavolo è un segno, la frase ho messo gli occhiali sul tavolo è un segno, di che cosa è composto questo segno? C'è una parte basilare, fisica, che è accessibile anche a chi non capisca che cosa vuol dire quella frase. Semplicemente senti, se non conosce la lingua, sentirà un insieme di suoni detti in una lingua, diciamo, straniera. Ma c'è una parte no? che veicola che cosa? Che è quella che veicola. È come se io tirassi un carretto. C'è un carretto, io tiro un carretto. Questo carretto è la frase ho messo il chiave sul tavolo. Se il carretto è chiuso, io non so cosa c'è dentro, ma se io apro il carretto e vedo vagamente qualcosa che equivale a ho messo il chiave sul tavolo davvero, che cosa ho fatto? Ho fatto un passo avanti perché ho capito quello che quei suoni vogliono dire, suoni di metafora. Se io non conosco la lingua, cioè se il carretto è chiuso e quindi io non so cosa vogliono dire, vedo soltanto un carretto che gira. Se so la lingua, quindi se conosco la lingua nella quale è prodotto quel certo campione linguistico, quella certa serie di suoni, capisco che cosa significa quell'insieme di suoni. Quindi in ogni produzione verbale, in ogni segno, in ogni produzione linguistica, in ogni segno c'è una parte che è puramente materiale, fisica, acustica, fenomenica, che però è quella che trasporta quello che la frase vuol dire. Naturalmente non è sufficiente impadronirsi di questo livello. Questo livello del segno linguistico è incomprensibile se io non possiedo anche la chiave sintattica, grammaticale per capire quello che la frase vuol dire. Se la possiedo, improvvisamente quell'insieme di suoni, ho messo gli occhiali sul tavolo, che per il bantù non significano nulla, per il parlante italiano significano caro mio, ha messo gli occhiali sul tavolo. Stringiamo. Ogni segno, secondo Saussure, è l'unità indissolubile di due cose però concettualmente separabili, il significante e il significato. Nella lingua parlata il significante non è altro che un suono o una catena di suoni. Il significato è, sbizzarritevi, l'immagine mentale, il concetto, quello che volete, Certo, se dico ho messo il chiave sul tavolo è un'immagine mentale. Se dico la bontà è una virtù rara, posso dire, sono cazzi l'immagine mentale, scusate, ormai è uscita lì. È difficile fare un'immagine mentale da una frase come la bontà è una virtù rara. Forse non c'è l'immagine, però c'è qualcosa di analogo, voi sapete che cosa vuol dire. Può darsi che in alcuni di voi, esatto, può darsi che in alcuni di voi la frase la bontà è una virtù rara evochi l'immagine di frotte di capitalisti bastardi che passano vicino a un povero cencioso e non gli danno una lira. Non so, per dire, oppure invece, diciamo, ognuno della sua, però in qualche modo quello che è vero è che sappiamo tutti che cosa vuol dire una frase di quel tipo, diciamo, conosciamo il significato. Quindi, seconda dicotomia della linguistica strutturale saussuriana, la lingua è un insieme di segni, Questi segni sono componibili, sono come i mattoncini del Lego, posso fare costruzioni sempre più grandi, sempre più grandi, sempre più grandi, tipo casa mia che parla per 4 ore di fila, un destino triste che vi tocca a voi per contratto, cioè a me per contratto, ma che però un po' di tempo finisce, quindi sarete liberati dall'incubo di casa mia che parla per 4 ore di fila. E quindi una lingua è un insieme di segni, è un insieme di produzioni segniche, diciamo, quindi di fenomeni chiamati segni, all'interno di ognuno dei quali segni, è descrivibile un livello, quello del significante, e un altro livello, quello del significato. Ogni segno per Saussure è un'unità indissolubile tra significante e significato. Spesse volte, fino dall'inizio del cours, saussuriano, Saussure è ricorso a questa metafora per far capire il rapporto fra significante e significato. Significante e significato sono esattamente come le due facce di un foglio. Io so che sono diverse, ma in realtà non le posso davvero separare. Non le posso perché è un foglio, ma se anche io avessi un coltello così sottile come quello di Chuang Tzu, che passa tra una fibra e l'altra ed è in grado di... In quel caso non avrei fatto altro che... avrei soltanto duplicato il foglio, cioè avrei ricostruito due nuovi segni, ognuno dei quali ha una faccia significante e una faccia significante. Quindi lang, parola, significante, significato. Terza dicotomia. Supponiamo di avere una certa familiarità con una certa lingua, per esempio l'italiano. Oggi è il 11 maggio 2012. Carolina sta sproloquiando su una serie di concetti bizzarri, strani, articolati, abbiamo fatti altri, non mio, quindi. E sta parlando in italiano, giusto? Supponiamo che io mi trasli nel tempo, ci sia la macchina del tempo, quella di Herbert George Wells, e io mi traslo esattamente un secolo fa, 11 maggio, non 2012, ma 1912. Secondo voi, l'italiano che io sto parlando, che impressione susciterebbe negli italiani, nei milanesi, non siamo a Milano, siamo a Gallarate, nei gallaratesi del maggio del 1912. Mi capirebbero? Probabilmente sì. Però suonerebbe strano. Suonerebbe strano. Sto Caronia è uno che usa un sacco di parole che non conosciamo, poi usa i modi di dire. Cioè sì, parla italiano, capiamo che parla la nostra lingua, ma capiscono quello che io voglio dire. Andiamo avanti, leggiamo, apriamo la Divina Commedia. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita. Ahi, quanto a dir qual era e cosa dura questa selva selvaggia ed aspra e forte che nel pensiero rinnova la paura. Tanto è amara che poco è più morte, ma per parlare del ben che vi trovai dirò delle altre cose, chi vo scorte e basta, perché se no la facciamo lunga. Bene, voi capite tutti quello che vuol dire questa cosa. Attenzione, se volete... Adesso sì, perché sono le prime tre tercine di Dante, le sanno tutti, sono quindi... Cioè, è chiaro che non è l'italiano né parlato oggi né scritto oggi, giusto? Aprite un romanzo di Gadda, anche degli anni 30, è un italiano ancora più bizzarro di quello di Dante, ma è bizzarro in modo diverso. Aprite un romanzo di dite uno più stronzo che voi potete, non so, Fabio Volo, o anche l'altro, Faletti, cioè, è un tipo di italiano ovviamente diverso da quello di Dante, però tutto sommato riusciamo a capire che si tratta della stessa lingua, giusto? se uno studia l'italiano, dopo un po' che studia l'italiano, anche se studia l'italiano parlato oggi, dopo un po' capisce con un po' di sforzo anche l'italiano scritto o parlato. Adesso parlato è dura perché non c'era il registro. Però diciamo, Petrolini, cioè quando Petrolini fa Gastone, Gastone con il sigaro e il bastone, più o meno è italiano, no? Gastone italiano, come dire, Gastone con il sigaro e il bastone proprio non c'è. Già Gastone con il guanto a pendolone o a penzolone, penzolone o pendolone comunque sia non è una cosa che noi usiamo tanto nel 2012, quindi già quella è una forma vocale, però capiamo sempre che è comunque italiano. Allora, c'è una struttura generale che è la grammatica, è cambiata anche quella, ma supponiamo, lasciamo perdere, almeno nella forma esteriore c'è qualcosa che accomuna l'incipit della Divina Commedia, la cosa di la parodia di Petrolini, di Gastone o anche di Nerone o di un'altra delle poche cose che ci sono rimaste incise di Petrolini 1910-12 così, e quello che sto dicendo io adesso, mi sono messo terzo, cioè, quindi abbiamo Dante, Petrolini e Caronia, siamo una bella triade. Quindi si tratta di tre campioni di lingua che hanno qualcosa di comune, ma contemporaneamente qualcosa di differente. Quindi questo vuol dire che le lingue hanno un aspetto vagamente, non dico immutabile, ma insomma più o meno costante, variabile, e un aspetto invece variabile. Insomma, adesso questa è più semplice, la faccio lunga. Le lingue si sviluppano nel tempo e hanno, pur rimanendo la stessa lingua, poi è difficile capire, le lingue sono un po' sempre diverse, come le specie animali. Le specie animali hanno tempi molto più lunghi, naturalmente, la lingua è un fenomeno culturale, quindi ha dei tempi molto più brevi. Però, quindi c'è una specie, si può studiare una lingua da due punti di vista. Si può fare un freeze, si può fare una foto, si può immobilizzare la lingua come è in un certo momento, anno 2012, supponiamo che non sia cambiata fondamentalmente la lingua da gennaio a novembre del 2012, che tutti in italiano parliamo più o meno, che tutti in Italia parlano più o meno lo stesso italiano, e quindi faccio uno studio e posso, studiando l'italiano nel corso del 2012, ricavare quella che è la struttura della lingua italiana in quel 2012. La struttura questa volta nel senso di una istantanea, com'è la lingua italiana in un certo istante, magari anche lungo perché un anno, sono più o meno un anno, si suppone che non cambi. Questo punto di vista, cioè il punto di vista della lingua studiata in un dato momento, in un dato istante, prendiamo il termine istante in maniera molto relativa, la possiamo chiamare sincronia, è uno studio sincronico, sincronos, ciò che accade sin, insieme, cronos, tempo, in un certo momento. Se invece voglio andare a vedere dove, come è cambiato l'italiano dai tempi di Dante a quelli di Petrarca, vabbè, sarà cambiato poco, a quelli di Ariosto, a quelli di Leopardi, a quelli di Gadda, a quelli non di Caronia, perché non è così importante, ma a quelli della lingua parlata italiana secondo decennio del XXI secolo, non faccio più uno studio in cui guardo la lingua, ma guardo come si è trasformata. Quindi non faccio della sincronia, faccio della diacronia, diacronos. Quindi ogni sistema di segni, non solo ogni lingua, ogni sistema di segni che abbia una storia, quindi che evolva nel tempo, avrà sempre un aspetto sincronico e un aspetto diacronico. Quindi, finora siamo a Land, parola, significante, significato, sincronia, diacronia. Adesso veniamo alla cosa più importante, probabilmente tra le più importanti, che è quella che caratterizza, è quella che ci fa capire poi realmente, ci fa capire, se abbiamo voglia, Lévi-Strauss. Non mi sono dimenticato che c'è Lévi-Strauss. Come era la frase? Ho mangiato gli occhiali. Vedi che già non, io non ho usato il verbo poggiare. Ho messo. No, va bene. No, questo è interessante per come noi, per la natura, tu giustamente hai astratto il significato, no? Poi hai cambiato, cioè sapevi che potevi fare una variante con il significante, quindi hai detto uso il termine, uso il verbo poggiare, mentre ho messo quello mettere. Torniamo a mettere, perché è quello che avete sugli appunti, non perché disprezzi il tuo poggiare, anzi è più bello il tuo poggiare, però ormai negli appunti alcune hanno scritto così, quindi lasciamo. Ho messo gli occhiali, ripristiniamo il libro, che mi sembra più. Ho messo gli occhiali sul libro, ok? Ho messo gli occhiali sul libro. Voi siete sicuri che è una frase ben costruita in italiano? No. No? Perché no? Sì, no, perché il soggetto. Soggetto, dai, come sei? Pel nell'ovo, Dio buono, sorprendente pel nell'ovo. Va bene. No, ok, si può. Va bene, si può lasciare sotto in cielo. Mettiamolo, io ho messo gli occhiali sul libro. È una frase ben formata in italiano, mi sembra che vada bene. Rispetto alle regole della grammatica. Questo vuol dire che io ho fatto una catena, ho messo all'inizio, cosa che posso fare o posso non fare, per i tedeschi sarebbe diverso, le lingue sono tutte diverse. L'italiano, il latino non ne parliamo, il latino ha un ordine variabile, la frase può mettere prima il complemento oggetto, poi un altro. L'italiano non le fa questi ghiribicci così che va, il greco anche può fare quello che gli pare, un po' meno che non il latino, ma anche che. Allora, ma diciamo, l'italiano è una via di mezzo tra la folle libertà del diciamo latino e la rigida gabbia del tedesco, tra le lingue indoeuropee, poi c'è. E tuttavia ha delle leggi che analizziamo la catena, è un segno, ho messo gli occhiali sul libro, è un segno a sua volta composto di altri segni, però quindi posso prendere i sottosegni e analizzarli. Trovo, il primo segno che trovo è O. Che cosa mi dice il segno O? Che cosa mi dice, per esempio, sul possibile soggetto di questa frase? Che è singolare. Che è singolare? Beh, non solo, che è O. Non è I e non è A. È prima persona. Quindi c'è una persona che sta parlando di se stesso, no? Siamo in prima persona singolare. O. Una volta che io supponete di non sapere quello che c'è dopo. Dopo la parola oggi potete mettere un sacco di cose, Generico, non è che è. Ho un bel libro, ho delle belle scarpe, ho una bella moglie, ho un amico stronzo, ho della sfiga. Posso dire che lo dai, no? Invece non c'è nulla di tutto questo e trovate messo, messo. Va bene, ho messo. Avete usato un verbo che è mettere, giusto? Dopo ho, ci potevate mettere? O mettere? No. Ci potevate mettere mettessi? No. Ci potevate mettere metterò? No. Cosa ci potevate mettere del verbo mettere? Solo un bacino passato, quindi solo messo. Ho messo. Qui l'italiano, andiamo a trovare. Che cosa ci può andare dopo messo? Ho messo. Quasi sempre è così. Ma non è mica detto. No, dove? Ho messo sul tavolo gli occhiali, ho messo sul libro gli occhiali, ho detto la stessa cosa che avrei detto dicendo ho messo gli occhiali sul libro, quindi l'ordine qui, questo fa parte di quella relativa libertà che l'italiano, a differenza del tedesco, ci dà di mettere le parole. Un tedesco non potrebbe farlo, eh? Non potrebbe farlo perché... No, il tedesco potrebbe farlo perché in realtà mettere l'ordine, sì. Intanto l'idea di habe, ich habe, no, è complicato perché adesso dovrebbe mettere il complemento oggetto. Ich habe di, non so come caso si dicono, si chiamano? Brille. Brille. Ich habe di brille auf den Buch. Mettere? Ge... Ah no, sì, ge... Dai, ge no, gelegen. Vabbè, dai, una roba così, gelegen, perché in tedesco la regola è che i tempi composti, se c'è un tempo composto voi mettete prima l'ausiliare, poi tutti i complementi diretti e indiretti e solo alla fine della frase, sottacci, mettete il participio passato di quel verbo. Per i complementi c'è l'ordine? Sì, no, per i complementi sì, ma è più una, non è considerata una grammaticatura grave cambiare con ma invece il verbo sì, non potete assolutamente dire ich habe gelegt den Buch auf den Tisch, quello proprio di guardare mi dà due schiaffi, cioè ich habe den Buch auf den Tisch gelegt, gelegen, come cazzo è, come sarà il verbo, non mi ricordo più niente io di questa lingua, accidentale. Insomma, comunque ogni lingua ha le sue cose. Allora, vabbè, torniamo all'italiano, ho messo il libro sul tavolo, voi avete preso una serie di pezzettini, di paroline, di mattoncini, avete costruito una sequenza di segni. Pensatela come scritta o come parlata, meglio se abituate a pensarla come parlata. Ho messo il libro sul tavolo. Avete messo dei segni in sequenza. La relazione che c'è tra questi sottosegni, la relazione che c'è tra ho messo, tra ho messo e il libro, tra il e libro, tra ho messo il libro e sul te, è una relazione sequenziale, avete messo uno dietro l'altro seguendo certe regole dei bene, avete creato un sintagma, si dice sintagma, sempre sin, sin vuol dire insieme, Allora, il sintagma, la dimensione sintagmatica del linguaggio è la dimensione del linguaggio come si produce realmente nell'esperienza, mettendo insieme il modo di mettere insieme i sottopezzettini significanti a metà per costruire qualcosa che abbia un significato totale, complessivo. O significa fino a un certo punto, messo significa, ma omesso vuol dire più di o da solo e messo da solo. Ho messo gli occhiali vuol dire da qualcosa, ho messo gli occhiali sul libro, ho messo gli occhiali sul tavolo, basta, chiuso, punto. È un significato compiuto. Avete costruito un sintagma. Un sintagma non è nient'altro che una serie di segni linguistici combinati a fare un segno linguistico di ordine superiore. Con un significato. Ovviamente con un significato. Tutti i segni hanno un significato. Abbiamo detto però che, per esempio, il segno ho messo gli occhiali sul libro ha un significato più pieno dei singoli pezzettini che costituiscono la frase. Adesso vi dirò una roba che so già che vi lascerà sconvolti, no, ma insomma sconcertati, e penserete questo caronia è pazzo. Voi avete costruito la frase, io vi dico, descrivete in prima persona l'azione che vedete adesso. Voi dite, ho messo gli occhiali sul libro. Per fare questa cosa, voi pensate di averla fatta così, vero? Ho messo, si vede, cosa ho fatto? Ho messo gli occhiali sul libro. In realtà la vostra competenza linguistica, non la vostra mente cosciente, assolutamente no, neanche l'inconscio freudiano, qui non c'entra nulla, ma sicuramente una serie di neuroni si sono attivati, qualcosa è successo, per cui voi rapidissimamente, avete primo deciso di non esprimere, di sottintendere, di saltare il soggetto dell'azione, perché sapete che si può fare così, esatto, di non dire io. Ma sapete, io non sbagliata, è soltanto una frase un po' più goffa. Io ho messo gli occhiali su, a meno che non voglia dire qualcosa di specifico, cioè sono io che ho messo, ma se no è meglio nel linguaggio comune dite ho messo gli occhiali sul libro, non io ho messo. Però non è sgrammaticato, va bene comunque. Allora, primo togliere il soggetto, che rimane come se fosse tra parentesi, no? Poi cosa avete fatto? Mi avete visto fare cosa? Compiere una? Ok. Come avete fatto a associare a questa azione che avete visto il verbo mettere? Perché è quella più appropriata, certo, no? Ovvio. Ma, allora, prima avete preso due diverse decisioni, prima. Primo, togliere io, cioè sottintendere il soggetto. Secondo, avete sicuramente deciso a che tempo usare il verbo. Perché voi parlate un attimo dopo che io ho fatto questa cosa, giusto? Quindi è difficile che usiate il presente. Se però lo usate, non è sbagliato, perché però a naso mi sa che è più probabile che usiate il passato prossimo. Se usate il passato prossimo sapete benissimo che dovete usare, perché lo usare avere? Non potrebbe essere sono? Perché? Non avete ancora scelto che verbo usare. Non avete ancora scelto mettere. No, non è soggetto, è il tipo di verbo, non è il verbo specifico, è il tipo di verbo. È un verbo che deve esprimere un'azione, comunque, un'azione e uno stato. I verbi di azione che ausiliare possono avere? Avere, non ci sono questi. Non ci sono verbi che esprimono azioni che non ha, in italiano che non abbiano ausiliare avere. Quindi o è. O l'avete deciso così, o, non potete dire altro che o, io ho. Ah, ma è messo il problema. Come avete fatto a dire messo? Perché avete detto messo? Magari c'è, perché comunque messo ha magari tanti sinonimi, però sì. Quello che non è una brutta idea, ha tanti sinonimi, ma può anche non avere tanti sinonimi. Sapete che dopo o ci va. C'è un vincolo, ci va il participio passato di un verbo, ma di un verbo che esprima una azione di spostare un certo oggetto materiale sopra un altro. Allora, voi sapete che in quella posizione ci va il participio passato di un verbo. Non l'avete fatto né consciamente né inconsciamente, ma è come se l'aveste fatto. In primo luogo avete scartato, avete automaticamente, non ci avete, ripeto, non è neanche una cosa inconscia, ma logicamente l'avete fatto. Avete scartato tutti i verbi che non sono di azione materiale. Avete scartato il verbo pensare, avete scartato il verbo riflettere, avete scartato il verbo piacere, avete scartato tutti i verbi di quel tipo lì. È come se voi aveste nella testa, non ce l'avete, ripeto, non voglio dire che non è una legge psicologica di funzionamento che vi sto scrivendo, è una ricostruzione logica a posteriori che sto facendo. E non c'è mai una lavagna, siete qua. Voi pensate di avere, voi avete, ho messo gli occhiali sul tavolo, delle lunghe colonne, e al posto di ho potevate, avete solo due, diciamo scelte, ho e sono, cioè stabilita la come dire, persona, gli ausiliari sono solo due, diciamo, quindi o è ho o è sono, lì la scelta era facile, ma mettere, dovete mettere il partito passato in verbo, i verbi sono un casino in italiano, quindi voi avete scartato a priori tutti i verbi che non esprimono movimento. Poi tra quelli che avete movimento avete scartato quelli che non esprimono esattamente, allora qui entra in gioco la corrispondenza tra parola e tra significante e significato. Dovete usare un significante che esprima quello che mi avete messo a fare. E avete ancora delle scelte. Invece di messo, cosa potevate dire? Appoggiato, collocato, posto. Potevate usare. se avete usato messo è perché avete fatto la scelta più no generale, più tipica possibile. Sì, tipica, cioè quella più aderente al linguaggio quotidiano. Ho messo, non è un linguaggio tanto colloquiale, è una cosa che benissimo, ho messo, e non è scelto. Allora, non ve la faccio lunga, per ognuna di quelle colonnine in cui avete diviso la frase, voi avete non scelto in maniera implicita, ma è come se aveste fatto una prescelta tra una infinità di verbi esprimenti azione, quindi verbi transitivi. Sapevate che dopo ci andava un complemento di detto. E allora, è chiaro che la lunghezza relativa delle colonne che voi avete pensato o non avete pensato, ma è come se l'aveste pensate, varia a seconda del tipo di parola. La colonna dell'ausiliare ha solo due possibilità, o sono, avete scartato sono perché sapete che è un'azione, quindi l'ausiliare era avere. La colonnina del verbo è lunghissima però, avete scartato d'un botto tutti quelli che non indicano azione. Poi siete andate a selezionare tra un numero più ristretto, ma comunque abbastanza ampio, se ci pensate abbastanza ampio, un verbo che indica azione e indica l'azione di, in sintesi, prendere qualche cosa, cioè possedere qualche cosa, controllare qualche cosa e spostarla di posizione, metterla in un'altra, spostarla in un'altra posizione. Una scelta del genere l'avete fatta per il termine libro. Ancora una volta, la colonnina dell'articolo sarà più corta, avrete solo il, lo, la, i, le, cioè, o anche un, una, perché potreste mettere anche un, uno, una. Sono un po' più che nel caso dell'ausiliare, ma sempre poca roba. Libro, cazzo, ce ne vuole per ricevere. Fra tutti gli oggetti possibili, potete essere teiera, caffettiera, sedia, cestino della carta straccia, tavolo, quaderno. Avete scartato all'inizio tutti i sostantivi astratti, perché non si mette, se non in maniera, ho messo la bontà, sì, ho messo la bontà al primo posto, cioè, allora lì c'era un uso, come dire, figurato, traslato, metaforico del, come dire, linguaggio. Bene, allora, ogni volta che voi, per costruire un sintagma, per mettere insieme le parole, ho messo gli occhiali sul libro, voi in realtà avete fatto inconsapevolmente ricorso a qualcosa che un sintagma non era. Un sintagma è un rapporto tra una parola e un'altra dentro una frase grammaticamente ben formata, per cui quindi ho messo e non ho mettere, ho metterò, ho messo il libro e quindi non ho messo il lampada, ho messo il professori, no? Cioè ci sono delle, man mano ricostruite la frase, questo vincola, ma voi avete sempre scelto tra una lunga, a volte lunghissima, a volte enorme lista di parole, siete dovute andare, ripeto, inconsapevolmente e in maniera, non l'avete fatto realmente, neanche la vostra mente l'ha fatto, ma è come se l'aveste fatto. Logicamente, se volete ricostruire l'operazione che avete provato a quello, dovete ammettere che per costruire un sintagma, cioè per mettere insieme in modo corretto una sequenza di segni linguistici, voi dovete ricorrere all'opposto di un sintagma, cioè a una lista, a una serie di vocabolario, di lessico. Il linguista dice paradigma. Non avete usato un sintagma, il sintagma è ciò che unisce, sintagma. Para è ciò che si elenca, una roba via l'altra, una roba via l'altra. Il termine non dovrebbe sembrare così strano, eh? Voi sapete cos'è un paradigma verbale? È l'insieme di tutte le forme verbali di un possibile verbo. Io amo, tu ami, io metto, tu metti, egli mette, noi mettiamo, io mettete e si mettono. Io misi, tu mettesti, egli mise, io metterò, tu metterai. Che io mettessi, che tu mettessi, che egli mettesse. Io metterò, tu metterai, egli metterà. Io metterei, tu metteresti, egli metterà. E così via. voi avete scelto dentro il paradigma del verbo mettere, avete scelto la forma appropriata, che è il participio stato messo. Ma avete, sono paradigmi anche gli altri elenchi, non sono paradigmi come il verbo, ma sono paradigmi anch'essi. Quindi, spero di averlo spiegato bene, ogni linguaggio, ogni atto linguistico ha una dimensione sintagmatica, cioè una dimensione, usiamo un po' di latino, in presenza. Quando i segni ci sono, tutti, i segni sono tutti presenti nel sintagma. Ho messo il libro sul tavolo, è accidenti. Ho messo gli occhiali sul tavolo, ho messo gli occhiali sul libro. Ho messo gli occhiali sul libro, ci sono tutti i segni, no? È una relazione tra segni in presenza. Una relazione tra segni in cui tutti i segni ci sono. Significano perché ci sono. Per poter costruire un sintagma, però, voi avete bisogno di un'altra dimensione in cui i segni non ci sono. Sono assenti, in assenza. Se voi dite ho messo, non avete detto ho collocato, non avete detto ho posato, non avete detto ho poggiato, non avete detto anche nell'ambito dei sinonimi, avete fatto una scelta, avete usato un paradigma inconsapevolmente, il paradigma dei sinonimi del verbo mettere, o più ampiamente il paradigma dei sinonimi di qualunque verbo esprimente azione, quindi che abbia bisogno dietro di sé di un complemento oggetto. Ogni linguaggio ha una dimensione di questo tipo, non ci sarebbe il linguaggio, non ci sarebbero i sintagmi se non ci fossero i paradigmi. I paradigmi sono le relazioni nascoste, le relazioni taciute, le relazioni non dette, le relazioni implicite fra le componenti del linguaggio, ma ciò nonostante fondamentali. Senza queste relazioni noi non potremmo costruire nessun linguaggio. Facciamo 3 minuti di pausa. Io sono morto.